Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. A tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati con oggi alla puntata numero 480, nella quale parleremo di nonne antispeciste, disfattismo all'australiana, pulcini italiani e cani cubani. Speriamo di avervi incuriositi. Sempre i governi accusano di disfattismo e di antipatriottismo i loro oppositori e dissidenti. Anche in ambito militare sono stati definiti disfattisti o nemici della patria coloro che, rifiutando la violenza, si rifiutavano di combattere. Perché in una trasmissione animalista si parla di disfattismo? Perché l'attivismo animalista e vegan può condurre a subire accuse simili. Accade in Australia, un paese dove l'allevamento è la spina dorsale del settore agricolo e ogni abitante consuma in media 110 kg di carne l'anno. Un paese dove protestare contro i mattatoi può portare a essere considerati antipatriottici. Apprendiamo infatti dal portale TheGuardian.com del giorno 8 aprile scorso che il primo ministro australiano Scott Morrison ha definito vergognosi e non australiani gli attivisti animalisti che nei giorni scorsi hanno organizzato una serie di efficaci dimostrazioni, proteste e boicottaggi in tutto il paese. Gruppi di attivisti vegani hanno fatto irruzione in diversi mattatoi e allevamenti del paese. I manifestanti si sono professati pacifici e infatti non hanno attaccato fisicamente nessuno, si sono incatenati e hanno chiesto che fossero liberati degli animali considerati dei condannati a morte. Noi crediamo si tratti di estorsione, ha commentato Marty Bella, rappresentante di un movimento di agricoltori, le Green Shirts. Gli attivisti si sono impadroniti di alcuni camion che hanno usato per bloccare gli ingressi di un mattatoio. Disagi anche a Melbourne, dove 11 linee di tram sono state rallentate e bloccate dalle proteste. Oltre agli attivisti, nel mirino del governo australiano c'è anche la mappa che il movimento animalista Dominion ha pubblicato su internet e che indica tutti gli impianti per la macellazione di animali del paese, allegando anche foto delle strutture. Se la mappa per gli attacchi degli attivisti rimane online, temo che qualcuno possa rimanere seriamente ferito o peggio, ha dichiarato il ministro federale per l'agricoltura David Littleproud. L'esecutivo ha invocato l'applicazione delle leggi sulla privacy contro l'organizzazione che ha pubblicato la mappa e che si rifiuta di cancellarla e che per questo rischia pene severe. Lo scorso anno il movimento Dominion ha pubblicato l'omonimo documentario nel quale venivano mostrate le terrificanti condizioni di vita degli animali negli allevamenti e nei mattatoi australiani. Noi non pensiamo che queste persone possano essere definite non australiane. Sono persone che mettono in discussione un sistema violento che basa la sua ricchezza sul sacrificio di individui considerati oggetti e non soggetti. Le tattiche di resistenza non violenta che sono state usate in Australia da questi attivisti sono le classiche tecniche dell'azione diretta non violenta. Picchettaggi, veglie, volantinaggi, pressione, resistenza fiscale, disobbedienza civile, boicottaggi, sabotaggi, scioperi, digiuni. La non violenza non è pacifismo, è attiva, reca naturalmente disturbo e può danneggiare i sistemi economici, specialmente quelli basati sullo sfruttamento e sulla violenza. Ma anche la cultura australiana può cambiare, può trasformarsi e aprirsi a un nuovo patto di fratellanza e di rispetto con le altre specie viventi. Questi attivisti non sono non australiani, sono forse un'anticipazione degli australiani di domani. Qualche tempo abbiamo avviato una rubrica dal titolo L'antispecismo spiegato a mia nonna. Il titolo ci è stato ispirato in prima battuta da un libriccino dei nostri amici editori ecologici, creativi e casalinghi Troglodita Tribe. Il loro libriccino, L'antispecismo spiegato a mia nonna, lo potete trovare in rete e se andrete a curiosare nel loro blog troverete anche tante altre loro opere. Tra la saggistica, la letteratura e la poesia, tutto a sfondo antispecista. Ma tra le puntate già andate in onda mancava una spiegazione un po' più approfondita e allo stesso tempo semplice del termine antispecismo, accessibile per chi non è già dentro la questione. Silvia Garatti, medico e attivista per la libertà, ha colto questo bisogno e lo ha soddisfatto a modo suo. E siccome ci piace unire sempre i fatti alle parole, Silvia, oltre a raccontarci qualcosa sulla parola antispecismo, condivide con noi una sua lettera di protesta e di obiezione di coscienza verso gli esperimenti condotti su animali. Una lettera sofferta, scritta da medico, da persona di scienza e rivolta a colleghi medici, persone di scienza, perché la scienza, in particolar modo la medicina, non può collocarsi al di fuori della vita, del suo rispetto e della sua preservazione. Ciao nonna, vieni, vieni. Come? Hai sentito alla radio l'antispecismo spiegato a mia nonna, sì? Sei una donna, sei vecchia, ma non sei rimbambita. E hai ragione, dai. Sì, no, hai ragione, però è solo un titolo un po' scherzoso. A me ha richiamato subito alla mente il libro Il post-anarchismo spiegato a mia nonna, di Michel Onfray, filosofo francese. Allora mi è venuto improvvisamente in mente che potremmo parlare di post-specismo invece che di antispecismo, così per indicare proprio un movimento che vuole muoversi in modo costruttivo, propositivo. Eros invece di Thanatos, pulsione di vita anziché pulsione di morte. Pensa che dopo qualche settimana ho trovato lo stesso termine anche sul secondo numero di una rivista, Kaizen, dell'editore Sonda. Bello, no? Come dici, nonna, Ah sì, specismo e antispecismo. Il termine specismo è stato coniato nel 1970 dallo psicologo inglese Richard Rider. E in questi 50 anni ormai, diverse poi sono state le definizioni e le riflessioni a riguardo. Comunque, dovendo semplificare, diciamo che specismo è un termine analogo a razzismo, sessismo, classismo, tutte forme di discriminazione. Lo specismo è quindi una forma di discriminazione basata sulla diversità di specie, in cui la specie umana discrimina le altre specie animali e, creando gerarchie arbitrarie e fittizie, sottomette le altre specie forte della legge del più forte. L'antispecismo si oppone, nella teoria e nella prassi, allo specismo. Di solito l'antispecista non nega la diversità tra le specie, ma non fa di questa diversità un elemento che discrimini gli altri animali per quanto concerne la considerazione dei loro bisogni, dei loro desideri, delle loro paure. Lo specismo è una delle espressioni dell'antropocentrismo, cioè del fatto che l'essere umano si pone con arroganza al centro e al di sopra di tutto e di tutti, e agisce in forza del suo maggior potere, in spregio a tutto e a tutti. Ecco, questa brutta storia non ci piace, nonna, ne vogliamo un'altra. Il post-specismo è questa nuova storia, in cui si cercano modi per tentare di confrontarsi, comprendersi, negoziare, per convivere tenendo in considerazione anche necessità, desideri e paure degli altri animali e la natura tutta. In quest'altra storia non c'è posto per corride, zoo, circhi, allevamenti di qualsiasi genere, nemmeno per gli esperimenti sugli altri animali, che suscitano lo stesso orrore che suscitano se li si immagina condotti sugli umani. A proposito, nonna, voglio leggere poche righe che ho scritto e inviato qualche mese fa. Aspetta, ne cerco. Ecco, nonna, ha trovato. È un commento che ho inviato al termine di un corso di aggiornamento per medici in cui si trattava anche il tema del dolore e in cui venivano citati anche alcuni esperimenti condotti sugli animali. Il testo è questo. Un piccolo cane sta ora dormendo acciambellato, fiducioso, sul mio grembo. Lui è il mio memento. Leggo, rileggo, cancello e riscrivo queste poche righe ormai da mesi. Sono continuamente tentata di desistere, ma non posso, perché il silenzio di fronte alle atrocità è collusione, è complicità. Appartiene a quel tipo di indifferenza colpevole di cui ci parla Liliana Segre e che è scolpita a caratteri cubitali in Stazione Centrale a Milano, da dove iniziavano i viaggi della morte. Proprio non riesco a trovare le parole per dirvi l'indicibile. È dolore. È strazio, è orrore. Allora guardo e riguardo, mio malgrado, quel video. Dolore sperimentalmente indotto con contrazioni addominali, infiammazione dell'articolazione temporomandibolare, legatura del nervo sciatico, dolore neuropatico da Vin Cristina. Guardo e ascolto con attonito orrore la descrizione asettica di questi atroci dolori inflitti volontariamente e consapevolmente a quei tormentati animali, che non sono modelli matematici, sono corpi e anime che il dolore lo patiscono, impotenti. Provate a immaginare di patirli voi questi dolori, di infliggerli ai vostri cani, ai vostri gatti, ai vostri figli. In scienza e coscienza dobbiamo e vogliamo agire. Ma dov'è qui la coscienza? Fareste lo stesso al vostro cane, al vostro gatto? Spero proprio di no. Per loro, per voi, per tutti noi. E non mi si parli di utilità. Che questo orrore sia utile o inutile è del tutto irrilevante. La categoria dell'utile non attiene a questa faccenda, fatta di carne, trafitta, di paura, di terrore, di morte, di sopruso, di sopraffazione. Termino qui. Sopraffatta dall'impotenza e convinta che quel primum non nocere a cui tutti noi, colleghi, ci atteniamo non possa rimanere confinato ai soli umani, ma debba essere esteso a tutti gli animali che provano piacere, dolore, gioia, tristezza, desideri, paura e non vogliono soffrire. Niente e nessuno può giustificare l'orrore di quel dolore inflitto. Niente e nessuno potrà mai renderlo cosa buona e giusta. Ah, nonna, ciao nonna, sarebbe bello se davvero tu fossi ancora qui con me. dedicata alla imminente festa pasquale, la ricetta di oggi curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Visto che la Pasqua è alle porte, oggi vi voglio dare una ricetta per un dolce alternativo alla colomba o alla pastiera. Si tratta della torta Cobischeri di Pontasserchio, della provincia di Pisa. Per tradizione si prepara per l'Ascensione, quindi successivamente alla Pasqua. Ma non sottilizziamo, secondo me i vostri commensali l'apprezzeranno senza badare al calendario. Gli ingredienti per una tortiera da 24 cm sono 300 g di pasta frolla vegan aromatizzata al limone e al liquore strega, 100 g di riso originario, 80 g di cioccolato fondente, 50 g di cacao amaro in polvere, 120 g di zucchero di canna, 20 g di arancio candito, 20 g di uvetta, 10 g di pinoli, mezza tazzina di liquore strega, un pizzico di noce moscata, vaniglia e sale. Lessate il riso, quindi scolate bene e mescolate tutti gli ingredienti. Con il calore del riso il cioccolato fondente si scioglierà, amalgamando bene tutto il composto. Lasciate raffreddare per almeno un'ora, ma anche tutta la notte se potete, in modo che gli aromi siano ben legati. A questo punto stendete la frolla e foderate uno stampo da crostata. Riempite con la farcitura e decorate con delle strisce di frolla, procedendo come per una comune crostata. Infine realizzate i bischeri, cioè aggiungete lungo tutta la circonferenza del bordo dei triangoli di frolla, dei becchi. Infornate a 180 gradi per 40 minuti circa e lasciate riposare bene prima di servire. Il Guardian si occupa degli asini di Santorini e scrive: mettetevi nei loro zoccoli. L'isola è nelle rotte delle crociere. Con la bella stagione sbarcheranno dalle nave orde di croceristi che, per evitare i 600 gradini per godersi il panorama, useranno i circa 4.000 asini che non ce la fanno più, come dimostrano le lesioni riscontrate sempre più spesso alla spina dorsale, causate principalmente dal trasporto di turisti in sovrappeso. Le associazioni animaliste e le autorità locali trovano insufficienti la legge approvata dal Parlamento greco che proibisce di porre sulla schiena degli asini un carico superiore a 100 kg o un quinto del loro peso. Asino è un duo indie rock di Massa Carrara, formato nel 2011, composto da Giacomo Ferrari e Orso Maria Arrighi. Dal loro ultimo lavoro dal titolo Amore, vi propongo Sentirsi male. ha detto basta alla strage dei pulcini maschi. Verranno quindi allevati fino all'età adulta 750.000 pulcini maschi all'anno. Fino a oggi destinati a essere soppressi subito dopo la schiusa, come viene regolarmente fatto negli allevamenti di galline ovaiole, per oltre 40 milioni di esemplari all'anno solo in Italia. I pulcini maschi che nascono da galline ovaiole infatti sono ritenuti economicamente improduttivi se comparati a quelli destinati a diventare polli da carne che nascono da galline di una razza differente. In Germania viene utilizzata una nuova tecnologia che si chiama Selegt, in grado di determinare il sesso dell'embrione dopo soli 9 giorni dalla fecondazione dell'uovo. Le uova maschili vengono accantonate e trasformate in mangimi per animali, lasciando nelle incubatrici a schiudersi solo le uova femminili. Coop però per il momento si limiterà a comprare pulcini per la produzione delle uova a marchio Coop da allevamenti che non prevedono l'uccisione dei maschi. Naturalmente quei pulcini, anche se non moriranno da neonati, non verranno certo lasciati vivere fino a morte naturale. Diventeranno galletti e capponi e verranno comunque uccisi per la produzione di carne dopo pochi mesi. Sui social non è mancato il dibattito a seguito di questa notizia, a dir poco contraddittoria. Si parla di benessere animale, ma lo si interpreta come un allungamento della vita di qualche mese. Rita Ciatti fa notare che o si è individui o si è oggetti. E se si è individui, non si viene allevati per poi essere uccisi, perché questo costituisce una forma di violenza ingiustificabile. Mentre se si è oggetti, ed è al rafforzamento di questo tipo di concetto specista che mirano campagne come quella della Coop, allora si può tranquillamente continuare a ucciderli, menzionando il benessere animale un po' a caso come un paravento morale. Tessa Gavina scrive: mi ricorda quella notizia dell'allevamento che era andato a fuoco. I pompieri salvarono qualche maialino e una volta cresciuti, come ringraziamento, i proprietari dell'allevamento mandarono ai pompieri salsicce fatte proprio dalla carne di quei maiali che avevano salvato. A proposito del complicato rapporto tra le manifestazioni della società civile e le autorità politiche, pensiamo che sia interessante una notizia dell'8 aprile che ci arriva da Cuba e che abbiamo trovato nel sito dell'agenzia di stampa AGI. A Cuba è avvenuto un fatto mai successo prima. Oltre 400 persone sono scese in strada organizzando una manifestazione popolare spontanea e le richieste erano ben chiare: più diritti per i cani randagi e basta uccisioni. Uccisioni troppo frequenti sull'isola socialista. Per farlo, i manifestanti hanno scelto un punto preciso dove incontrarsi: al cimitero, di fronte alla tomba di Jeanette Ryder, un'americana trasferita a Cuba che fondò la società di protezione di bambini, animali e piante, e dove il suo cane Rinti, alla morte della padrona, si lasciò morire di fame e sete per vegliarla. Un fatto esemplare che accadde nel 1931. Rinti rifiutò acqua e cibo dai cubani che passavano di lì e che lo vedevano deperire giorno dopo giorno, ma il dolore del cane per la perdita della sua padrona era troppo forte. Così, partendo proprio da quel luogo significativo, il corteo ha manifestato per chiedere la fine dei maltrattamenti sugli animali a Cuba. La notizia ha fatto scalpore, perché è la prima volta che un gruppo di persone si riunisce spontaneamente senza che la marcia venga organizzata da un ente legato al governo. Di solito tali proteste vengono infatti dirette dalle associazioni governative. Un fatto unico dunque, che ha fatto sì che il 7 aprile, giorno di questa manifestazione così unica nel suo genere, venisse ribattezzato Dia del Perro, cioè giorno del cane, che oltre ad avere una valenza per quanto riguarda i diritti degli animali, assume anche un'importanza storica a livello politico. È un evento senza precedenti, ha sottolineato da parte sua Alberto González, uno degli organizzatori, fondatore di un sito animalista online. Questa marcia segna un prima e un dopo. Speriamo anche e soprattutto per i cani randagi di Cuba. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 481 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde. Stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.